to mix. Sei pronto? Pronto, l'autotest? Sì, sono io. Io ho trovato questo numero sulla rubrica delle cliniche specializzate per le ossessioni varie, da sesso, rap, queste cose qua, questi piccoli problemi che abbiamo noi ragazzi di strada, diciamo. Sì, sì, ho capito. Mi dica, che problema ha lei? Io ho un'ossessione particolare per le rime, per il rap, per i quattro quarti, tutte le cose, diciamo, che si muovono su questi ritmi un po' urba, come si dice, capito. In questo periodo, sai, oggi le riviste parlano di questa musica, questo movimento che cresce. Volevo chiedere se potevo prendere un appuntamento, perché avevo bisogno appunto di una sua consulenza. Assolutamente. Penso le rime. Assolutamente sì. Mi può ricordare il suo nome? Io sono il signor 01. Perfetto, allora signor 01, io prendo nota del suo problema. Io le consiglio comunque sia di cominciare con una terapia un po' intensiva. Lei cominci a fare un'ora al giorno di freestyle in quattro quarti. Mi devo prescrivere i beat, i ritmi? Le prescrivo le batterie, i ritmi con svariati BPM, con dovute atmosfere, e lei si ricorda di fare non solo rime baciate, ma anche rime un po' alternate. Poi chiaramente più avanti prescriveremo un'ampia dose di freestyle a cappella con dei beatbox. Perfetto, guardi, io appena possibile vengo da lei in studio, così mi può visionare tutto quanto, mi esprime tutto quello che mi deve esprimere. Perfetto, io lascio un appunto alla mia segretaria, così poi magari verrà ricontattato per poter venire in studio da me. Va bene. Buongiorno. 01.